abbiamo ricevuto, come Radio BBS Popolare Network, l'ordinanza del Ministero delle Comunicazioni di staccare il trasmettitore da cui trasmettiamo sui 94,2 di Roma e del Lazio. Le motivazioni per le quali il Ministero ci dice di chiudere è che disturbiamo la frequenza di un Golia dell'etere romano e del centro Italia, Radio Subasio, che in questo momento esercisce una quantità incredibile di frequenze e di trasmettitori nella zona della città. Il Ministero si mette contro Davide, che in questo caso è Radio BBS, volendo spegnere una voce che probabilmente dà qualche fastidio, perché è una voce che è fuori dal coro, mentre invece in qualche modo tollera una presenza strabordante di questa radio commerciale che copre praticamente tutta Italia e che su Roma ha una frequenza amplissima che va dai 94 ai 94,5 MHz. Noi stiamo in mezzo, abbiamo una regolare concessione per trasmettere sui 94,2. Da quando abbiamo cominciato siamo sotto il tiro, nel senso dei controlli del Ministero delle Comunicazioni, che controlla ogni nostro movimento e che è arrivato appunto a concludere che disturbiamo. Disturbiamo Radio Subasio, ma probabilmente disturbiamo qualcosa di più, per cui ci è arrivata questa intimidazione a disconnetterci. A nostre spese peraltro, e con una multa in arrivo che potrebbe essere dai 500 ai 5.000 euro. Abbiamo messo in movimento la nostra macchina giuridica per difenderci, siamo in attesa di sapere come evolveranno gli eventi. Comunque si sappia che la sopravvivenza di Radio BBS Popolare Network è messa in discussione dal Ministero delle Comunicazioni.